24 Mattino. I parrucchieri, primo giugno, con la ricrescita che ho io, ereditaria proprio nel DNA, i miei il 31 maggio saranno più lunghi della barba del profeta. La differenza tra andare a fare una camminata da solo nel bosco, una corsa da solo nel bosco, un'uscita in mountain bike da solo nel bosco dove non c'è nessuno, e il fatto di stare in coda davanti a un supermercato o una farmacia in 20-30 persone, qual è? Buongiorno Simone, certo che anche voi giornalisti, però insomma, questo Conte alla fine, se specifica è perché ha specificato troppo, se non specifica perché è stato troppo vago e non sappiamo cosa fare, se ha specificato troppo non sappiamo cosa fare, va in confusione, ma insomma, veramente non avete altre notizie da dare a questo punto, Amica mia, il tema è proprio che nel momento nel quale metti delle norme e queste norme prevedono delle multe, io ho bisogno di un po' di chiarezza su quali sono i comportamenti consentiti. Oppure fai un appello alla responsabilità dei cittadini, e quello è un altro conto, e ci sta. Puoi anche dire, puoi anche non fissare tutto su un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dire semplicemente e fare un generico appello alla responsabilità, dire agli italiani che cosa ci aspetta, chiarire che secondo quello che dice appunto il Fatto Quotidiano, in uno scenario disegnato all'Istituto Superiore di Sanità, ovviamente lo scenario peggiore tra quelli identificati, se riparte tutto e se tutti tornano a muoversi come prima, l'8 giugno siamo di nuovo in crisi con le terapie intensive. Nel momento nel quale lo chiarisci, senza fare del terrorismo, penso per esempio a come ha gestito anche dal punto di vista comunicativo Angela Merkel tutta la vicenda. Non è un prendersela con il governo, è semplicemente dire forse insomma le cose anche dal punto di vista comunicativo si possono gestire in modo diverso. Se decidi di normare tutto, è chiaro che poi le persone hanno bisogno di chiarimenti. Se metti in un provvedimento che ha forza di legge, la parola affetti stabili, e in caso di non affetti stabili rischi la multa, è qualcosa mi devi dire, insomma, perché io poi ce l'ho chiaro, c'è il buon senso certamente, però se poi mi trovo con 400 euro di multa, che cosa faccio? Perché l'affetto non è considerato stabile, o perché ho il poliziotto di turno decide di interpretarla in un certo modo, in buona fede, Capisce che è un po' problematica questa cosa qua. Insomma, no, ripeto, non è prendersela con il governo, è semplicemente questo. I parrucchieri, i barbieri, le nostre barbe, i nostri capelli, ragazzi, non è questo il problema, perché poi magari con le macchinette, con le forbici, in qualche modo possiamo rimediare in questo periodo ed essere un po' meglio. Le cerette fatte in casa. Però il problema sono loro. Sono tutte queste categorie che in questo momento non hanno alcuna visibilità sul loro business e sui soldi che gli entreranno, sulla liquidità che gli arriverà, su come faranno a tenere aperto. Molti chiuderanno. È questo il punto. Con tutto che le battute sui nostri capelli, sulle nostre barbe, sui peli, sulle gambe, tutto quello che volete, però qua c'è un grande tema su questo fronte e si porrà presumibilmente anche per le palestre, non solo, per tutti i centri sportivi e via dicendo. E va bene, iniziamo, la seconda parte di 24 Mattino, martedì 28 aprile, sono le 7:21 minuti e 22 secondi ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. 349-238-6666, come sempre il numero per gli WhatsApp audio, per farci sentire la vostra voce. Siamo in diretta come sempre anche su Facebook, se volete ci trovate anche là, siamo su Instagram, su Twitter, insomma su tutti i social. Allora, le prime pagine dei quotidiani, iniziamo da qua. Il quotidiano nazionale: Conte tiene duro, normalità lontana. Governatori, chi sbaglia paga, è il titolo sul governo che avverte le regioni del nord dopo lo strappo sulle riaperture, diciamo siamo pronti ad impugnare, e qua le tensioni tra governo e regioni un po' tornano a riemergere su tutti i quotidiani. Fase 2, proteste e correzioni, è il titolo del Corriere della Sera. Il discorso di Conte fa chiudere 500.000 imprese, è il titolo del giornale. La Stampa: parla Conte, mi attaccano ma rifarei tutto. Quotidiano Libero: Conte ci prende in giro, visita la Lombardia con 2 mesi di ritardo. La Verità: basta col Conte che si crede re. Il Fatto Quotidiano, come si diceva, titola invece su questo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Se si riapre tutto, collasso in un mese. È lo scenario dell'Istituto Superiore di Sanità dietro la prudenza di Conte, che è ovviamente lo scenario peggiore tra i vari disegnati dall'Istituto Superiore e dal Comitato e consegnati al Comitato Tecnico Scientifico. E invece aprono parlando di messe da fronti diversi del tema, appunto, della ripartenza delle messe. La Repubblica, che parla, che titola Messe dietro fronte di Conte. Il Manifesto, che titola CEI o ci fanno. E Avvenire, che titola con messa in sicurezza, e anche qua anche Avvenire si concede un gioco di parole. Il Sole 24 Ore è ovviamente dedicato alle questioni economiche, e ce ne sono molte ovviamente correlate alla crisi, come già dicevamo. Banca Italia: alle imprese servono fondi, è il titolo. L'allarme di Via Nazionale: debiti e perdite rendono le imprese vulnerabili. A centropagina il richiamo ad un'intervista realizzata con il ministro Stefano Patuanelli, alle piccole e medie imprese 15 miliardi, con la Cassa Depositi e Prestiti piani per telecomunicazioni, energia e acciaio, fa sapere Patuanelli, di taglio centrale sulla sinistra del quotidiano. A centropagina invece la grande foto è dedicata alla Germania: scuole, negozi, impianti Volkswagen, la Germania prova a riaprire, e c'è questo bellissimo gioco che qualcuno di voi avrà visto, fatto con il logo della Volkswagen. Di fatto hanno voltato il logo della Volkswagen, l'hanno girato di 90 gradi, tramutandolo in una specie di Pac-Man, e che si va a mangiare un disegnino del coronavirus. Tutto questo sulla sede centrale, nella sede centrale della Volkswagen, con questo segnale acceso che si vede appunto dalla distanza. C'è anche un'intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini: controlli e notifiche in 2 tempi, fa sapere. Ovviamente la Gazzetta dello Sport è dedicata al tema della Serie A, la frenata con una A grande, anche qua un gioco di parole, la perplessità del Comitato Tecnico Scientifico, al primo positivo fermi tutti, il ministro Spadafora che dice ridicolo parlare di complotto con il calcio, contro il calcio, magari poi riusciamo anche a recuperare l'audio di Spadafora e lo facciamo sentire, e la Lega Calcio che in questo momento è furiosa perché vorrebbe ripartire. Iniziamo da qualcosa che è correlato al coronavirus, ma è un po' laterale, però è un tema che sta piano piano si fa strada e sta facendo dibattere, ed è quello della scarcerazione dei boss mafiosi. E qua ci sono, se volete, 2 visioni diverse, no? Che cosa è successo nei giorni scorsi? Che nei giorni scorsi, appunto, è stato scarcerato, per esempio, il boss Zagaria, racconto il camorrista Pasquale Zagaria, il calabrese Domenico Perre, colonnello dell'anonima sequestri. Tutto questo in forza di quello che succede dal lato del virus e i rischi sanitari che questi correrebbero. A decidere è il Tribunale di Sorveglianza, è un ente decentrato, cioè non è che il Ministero della Giustizia, e però il Ministero della Giustizia sarebbe intenzionato a intervenire. Dunque ci sta ragionando, racconta il giornale a pagina 16 con Luca Fazzo, perché oggi si decide sulla libertà di Raffaele Cutolo. Nella sua cella del reparto di massima sicurezza del carcere di Parma, Raffaele Cutolo, racconta Luca Fazzo, Ieri ha passato un'altra giornata di attesa. La decisione del giudice di sorveglianza di Reggio Emilia sulla sua istanza di scarcerazione arriverà forse oggi, forse domani, un ritardo che è poca cosa per un uomo che ormai dietro le sbarre ha passato quasi 16.000 giorni. Ma intanto il caso di Don Raffaele si è ingigantito a dismisura, al punto di lanciare le sue ombre persino sul governo e in particolare sul ministro della giustizia Alfonso Bonafede, perché il rischio che Cutolo, con i suoi crimini e i suoi segreti, possa uscire di galera è divenuto il simbolo dell'impreparazione con la quale le carceri italiane hanno affrontato la catastrofe del coronavirus. Non ne sappiamo nulla neanche noi, dicevano ieri dagli uffici del guardasigilli, con questo appunto Cutolo che potrebbe tornare libero. Si sta ipotizzando un decreto apposito, e però la competenza sulle istanze di scarcerazione per motivi di salute non è del Ministero né del DAP, la direzione delle carceri, ma dei tribunali di sorveglianza, dove i giudici non sarebbero disposti a sopportare un'invasione di campo da parte del governo. E dunque, come capite, un'altra questione correlata a Covid, diversa da Covid, ma correlata a Covid, che si impone, un po' come la mette il Fatto Quotidiano, sul ricostruendo la vicenda appunto della liberazione di Pasquale Zagaria, 60 anni, detto Bin Laden, fratello del capo dei casalesi Michele Zagaria. Dal DAP sarebbe arrivata una mail in ritardo e Zagaria sarebbe uscito ugualmente, però la mail in ritardo dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbe arrivata, racconta Antonella Mascali a pagina 18 del Fatto Quotidiano. Come insomma capite, un altro problema, un nuovo problema che arriva per Alfonso Bonafede. Verrei tra un attimo alla questione delle messe, che come ben capite è anche una questione politica, però prima di tutto vi voglio portare su due pagine di quotidiani, che sono quella 7 del Corriere della Sera e la 3 del Manifesto, che dedicano ampio spazio a questo punto e in vista della fase 2, in vista della ripartenza di alcune attività, al tema delle madri. Come sapete, qua a 24 mattino ce ne siamo occupati parecchio, è una questione fondamentale, ossia ripartono alcune attività e cosa faccio con i figli? Il governo finora ha risposto cosa? Con un bonus babysitter piuttosto limitato e con l'ipotesi del congedo parentale. Congedo parentale che però porta lo stipendio al 30%. Congedo parentale che però inevitabilmente, per le disparità di salario che ci sono in questo paese, condurrà, è piuttosto probabile, a rimanere a casa le donne, e si raccontano anche di questi anni di battaglie perse. E allora il Corriere della Sera con Elvira Serra a pagina 7 ci porta alle storie singole, alle lettere delle madri arrivate allo stesso Corriere della Sera, ai racconti delle madri, e anzi se volete c'è anche il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, se ci volete dire la vostra. Tra Francesca, 43 anni, una bambina di 2 anni e mezzo, sono infermiere, il mio compagno lavora in banca, le nostre attività non hanno mai chiuso e aumenteranno il ritmo al termine del lockdown. Non abbiamo nonni, ogni giorno è una corsa a ostacoli, ma non potrà durare a lungo. Io dovrò gettare la spugna e rinunciare al mio lavoro. Ancora 2 figli, un bambino di 4 anni e una bambina di 6. Il minore è nato con la sindrome di Down, le sue sedute riabilitative sono state interrotte il 23 febbraio. Sono stata in costante contatto con le terapiste di mio figlio, straordinarie professioniste. Come ogni bambino con disabilità, mio figlio si merita di essere seguito da persone competenti, con competenza, non da me, pur con tutto l'amore del quale sono capace. In questi giorni in cui siamo passati dal lutto inconsolabile all'ansia di riaprire le attività, non ho sentito nominare i centri riabilitativi. Insomma, tutti temi che poi potremo anche affrontare più avanti alle 8.30 con la ministra della famiglia Elena Bonetti. Una pausa e poi voglio tornare su questo tema perché è interessante anche la pagina, anzi no, facciamo una cosa, chiudiamolo qua con la pagina del Manifesto, a pagina 3, perché innanzitutto ci racconta con Daniela Preziosi che la maggioranza è divisa sulla scuola. Ieri abbiamo avuto un messaggio su questo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e forse Peter Bescapè, riusciamo a recuperarla la voce di Mattarella? Giusto un passaggio per far sentire come il Presidente della Repubblica in questi giorni, dopo una serie di giorni di silenzio, abbia deciso di intervenire, e abbia deciso di intervenire rivolgendosi proprio ai ragazzi. Care ragazze e cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che fino a poco tempo fa nessuno avrebbe immaginato. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto in poche settimane le nostre vite. Dobbiamo confrontarci con regole che cambiano drasticamente tante abitudini e la nostra quotidianità, anche la vostra vita è improvvisamente cambiata. Le scuole di tutto il paese sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato e non sarà possibile riaprirle in sicurezza. Quindi maggioranza divisa su questa questione, ce lo racconta Daniela Preziosi sul manifesto. Manifesto che riporta anche un racconto di Nedo Lombardi da Bologna, siamo sempre a pagina 3. Hanno ascoltato il discorso di Conte, hanno letto e riletto i resoconti della conferenza stampa, eppure nulla, nessun accenno ai bimbi. E non basta certo dire che la scuola riaprirà a settembre, spiega un papà bolognese che giovedì protesterà di fronte al portone di casa esponendo un cartello con la scritta «Qui vivono dei bambini», un modo per autodenunciare l'esistenza dei figli, visto che il governo sembra non volersene accorgere. Un problema aperto dunque questo delle scuole che insomma al momento non vede soluzione. Una pausa. Mattino. Buongiorno, volevo fare una domanda, ma io che ho la mia compagna che non vedo da 2 mesi ed è in un'altra provincia, posso andare a trovarla o no? Ma negli altri paesi questo dover girare con le giustificazioni in tasca come i bambini non esiste. Buongiorno, ma già se non si riesce ad avere i soldi in prestito, per avere dei soldi a fondo perduto probabilmente ci chiederanno di stare in piedi con le orecchie. Beh, l'espressione è dura ma è bellissima, in piedi con le orecchie. Sì, questa storia delle autodichiarazioni, che le devo dire? Insomma, lascia perplesso fin dall'inizio anche me, però così è. E sullo spostamento di provincia, io penso di sì. Ancora una volta, la questione degli affetti stabili è affidata un po' al nostro buonsenso, perché come avete sentito prima, il Castellone, no? Che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, ci ha detto abbastanza chiaramente che a questo punto le multe sarà molto difficile farle, sarà molto difficile mettere in pratica tutto questo per gli uomini delle forze dell'ordine. Quello che sappiamo è che non ti puoi spostare da regione a regione se non per motivi di urgenza, quindi se la tua fidanzata invece vive nel paese a 5 chilometri oltre il confine tra una regione e l'altra, presumibilmente, salvo il buon cuore delle forze dell'ordine, non puoi andarla a trovare, o il tuo fidanzato, insomma, o il tuo affetto stabile. Aggiungo Danilo da Schio che chiede un chiarimento. Mia cognata, che poi è come la mia famiglia, ha una famiglia di 5 persone, genitori più 3 figli. Se stappano un prosecco è assembramento privato con parti? È un'ottima domanda. Non lo so, non credo perché qua è una questione anche di affetti stabili. Non so come si mescolino le norme a questo punto. Ragazzi, non so che dire, qua è semplicemente una questione di buonsenso, il buonsenso che in gran parte abbiamo dimostrato fino adesso e buonsenso che dobbiamo mantenere. Allora, un po' di questioni sulle regioni, e non solo sulle regioni, perché questo poi ci porta immediatamente al quadro politico generale. Iniziamo dal Piemonte, perché la gestione da parte del Piemonte, che è una delle regioni che sta registrando più casi in quest'ultimo periodo, casi fortemente in crescita, è un po' sotto accusa, per tanti motivi. Nonostante la situazione generale sia positiva o relativamente positiva, come racconta il Corriere della Sera, pagina 16, il bilancio è di un calo dei contagi con meno di 2.000 nuovi casi, dall'altra parte c'è questa vicenda piemontese che naturalmente colpisce, no? questa crescita dei casi, e c'è quella che viene definita l'emergenza Piemonte. Massimiliano Nerozzi intervista tra l'altro il presidente della regione, Alberto Cilio, lo ricordate, è stato anche ospite nostro, e anche di questo abbiamo parlato. C'è una questione che ha a che fare con i tamponi. Secondo Cilio, questa è la più grande battaglia del dopoguerra, qui in Piemonte la resistenza l'abbiamo fatta. Processiamo ormai 6.000 tamponi al giorno, siamo tra le regioni che ne fanno di più, e però di tamponi, chiede Nerozzi, ne avete fatti pochi all'inizio dell'epidemia. Perché? Come linea sanitaria la regione seguiva le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che non sono il mago Telm. Il Veneto se ne è infischiato, non potevate fare lo stesso? No, c'era un problema di carattere strutturale cui abbiamo cercato di porre rimedio nel più breve tempo possibile. In tutto il Piemonte c'erano 2 laboratori in grado di processare tamponi, in Veneto 14, se non sbaglio, è una bella differenza. E adesso siamo a 21 laboratori, più 2 mobili, e entro maggio ne attiveremo altri 3 grazie a intese generali. Significa passare da 200 tamponi giornalieri a 6.000. E qua vengono riportate anche le parole dell'assessore alla sanità, perché ieri è stata aperta un'inchiesta sul Piemonte. L'assessore Luigi Cardi ha detto: se dovessi andare in carcere lo farei a testa alta. Chiede Nerozzi a Cirio che pensa, ha usato un'espressione forte, risponde: sono settimane dure e difficili, ma la coscienza ha posto e ha fatto il suo lavoro. E qua c'è la questione dell'inchiesta, è oggettivamente quella aperta dalla magistratura sul Piemonte, viene riportata in particolare dal Manifesto, appunto a pagina 7, la magistratura che vuole approfondire la questione tamponi aumentati nell'ultimo periodo, ma vero tallone d'Achille della gestione regionale. Una delle principali necessità per vivere con maggiore tranquillità la prossima fase. Servono ovviamente a individuare i contagiati. Insomma, su questo aspetto si è interrogato Alessandro Ferretti, ricercatore di fisica all'Università di Torino, che fin dall'inizio dell'epidemia ne studia i numeri e ha notato come dal 1 al 23 aprile circa 30.000 degli 88.000 tamponi siano stati impiegati per tentare di certificare le guarigioni. Quindi, come capite, su 80.000 tamponi, 30.000 usati su chi era in ospedale e poi è guarito. Questo vuol dire che ovviamente il numero di tamponi è, per così dire, falsato, cioè non è il numero di individui sui quali viene fatto il tampone, ma su una persona vengono fatti 2 o addirittura 3 tamponi e vengono conteggiati, no, come singolo tampone, e questo abbassa ovviamente il numero effettivo dei contagi. La questione delle messe, delle chiese, qua. Anzi no, prima di andare a questo, scusate, andiamo un po' con un attimo di ordine e rimaniamo sul tema delle regioni. Il tema delle regioni è importante perché un po' su tutti i giornali trovate la registrazione di un nuovo scontro. Il Gazzettino parla esplicitamente di uno scontro tra il governo e le regioni, di una riapertura delle tensioni. Su altri giornali si parla del nuovo scontro tra il nord e il governo, in particolare il presidente della regione Veneto, Zaia, che vuole far ripartire prima e farà ripartire prima una serie di attività, il governo che fa sapere che impugnerà. Il Sole 24 Ore a pagina 13 ci porta su un aspetto politico, un aspetto politico che ci condurrà tra l'altro anche sulle pagine del Foglio, ed è l'aspetto politico della Lega e di quello che succede all'interno della Lega, e non solo quello naturalmente. Allora, il professor Roberto Dalimonte porta la sua analisi, il suo sondaggio sulle pagine del Sole 24 Ore, come sempre fa, siamo a pagina 13. Innanzitutto ci dice che il virus ha spinto l'antieuropeismo, almeno in questa fase. Vedremo che cosa succederà tra un po', insomma, quando poi saranno state assimilate ovviamente le ultime novità in arrivo da Bruxelles. Però nella sostanza il 42% degli italiani si dice deluso da, in questo sondaggio del Sole 24 Ore, da quello che ha fatto l'Europa, il 35% soddisfatto, il resto non si pronuncia. Ma ci sono anche dei segnali interessanti. Cosa dicono, insomma, alla luce di quello che è successo, la domanda è questo: con questa crisi per l'Italia è un fatto positivo o no far parte dell'Unione Europea? La domanda è questa. Il 42% dice che è negativo, il 23% non si pronuncia e il 35% dice che è positivo. Il fronte interessante arriva dal lato, per così dire, leghista, perché in questi giorni sono circolate varie indiscrezioni su una serie di manovre che sarebbero in atto per, di fatto, scalzare Matteo Salvini dalla guida della Lega. All'interno si nega, come sempre succede in questi casi, e si negherà anche nelle prossime settimane, però insomma, questi retroscena ci sono e noi ne prendiamo atto del fatto che sono dei retroscena, insomma, che poi potranno essere smentiti. Fatto sta che al centro, e sempre accade in queste situazioni, che al centro di questa idea viene posto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che insomma appare come un po' più moderato, no? Rispetto al leader del suo partito. Ebbene, nel sondaggio realizzato appunto dal Sole 24 Ore dal centro del professor Dalimonte, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, risulta il leader più apprezzato nella gestione della crisi, e anche questo è un segnale da tenere presente. Allora, Luca Zaia ha un gradimento del 46%, con Conte che si attesta al 35%, Mattarella al 32%, la Giorgia Meloni al 28%, Stefano Bonaccini al 23% e De Luca, il presidente della Regione Campania, al 20%. Solo sotto, solo dopo, arriva Matteo Salvini con un 18%. Da segnalare anche, insomma, come questo è uno spunto interessante, in chiave politica, vedremo che cosa accadrà su questo fronte. Ci sono altri nuovi retroscena, tra un attimo andremo sul Foglio per vedere un attimo anche l'aspetto più politico della questione. E però c'è anche un sondaggio sul MES, sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Secondo il sondaggio, il 62% degli italiani ritiene che l'Italia non dovrebbe accedere al Meccanismo Europeo di Stabilità e finanziarsi in un altro modo. Ovviamente percentuali bulgare dalle parti della Lega, di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle, percentuali opposte da parte del PD e di Forza Italia. Una pausa. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Beh, anche la Chiesa potrebbe portare pazienza ancora un mesetto, anche se uno prega da casa sua. I musulmani pregano sempre per i fattacci loro. Ma come si fa a non tener conto dell'età media degli avventori, delle messe domenicali, eccetera? Come si fa a non tener conto dell'età media? Se il Premier Conte ha più volte ribadito che si esce solo per motivi inderogabili di salute, di lavoro o altri motivi inderogabili, cosa c'entra la passeggiata al parco? Cosa c'entra andare a prendere la pizza in pizzeria? Sì, lo ha ribadito, poi però nei provvedimenti ci sono scritte delle altre cose, sono previste delle altre fattispecie. La questione delle messe, ci arriviamo tra un attimo, ci arrivo subito. Ma prima, vi avevo promesso una questione politica, la liquidiamo abbastanza rapidamente. Tra l'altro parleremo alle 8:20 con Silvio Berlusconi, sarà nostro ospite per parlare un pochino appunto della collocazione di Forza Italia in questo momento. Tanto si parla di un'ipotesi di appoggio esterno a questo governo. Qua si parla anche di un lavoro per il post Conte. Ci sono, insomma, quello che viene definito il gran ciambellano del berlusconismo, Gianni Letta, che parla e dice al Foglio, siamo qua con Merlo sul Foglio, appunto, che insomma Letta sembra più che mai disponibile a scenari di concordia nazionale dentro e fuori dal Parlamento. E infatti venerdì è andato a inaugurare il nuovo padiglione dello Spallanzani attrezzato per il Covid. Ecco che il gran ciambellano del berlusconismo ha utilizzato l'occasione per spiegare, presente Nicola Zingaretti, che tutta quella collaborazione tecnica, politica e istituzionale che ha permesso la nascita del nuovo padiglione ospedaliero gli sembrava un buon auspicio. Quello cioè che, messe da parte le divisioni, le contrapposizioni, le bandiere, gli schieramenti, i preconcetti, i pregiudizi, si possa lavorare tutti insieme per la soluzione dei problemi che angosciano in questo momento gli italiani. La segnalazione forse di un piccolo spostamento di Forza Italia, ma ne parleremo più avanti con Silvio Berlusconi, sentiremo che cosa ha da dirci. La questione delle messe aperta. Qua abbiamo ovviamente molti elementi. Qua ci sono due opinioni a confronto, ci vengono riportate dal quotidiano La Repubblica, sono quella del vescovo di Pinerolo e del patriarca di Venezia. Il vescovo di Pinerolo, che tra l'altro è stato colpito da Covid-19, e dice, insomma, serve prudenza. Ai vescovi suggerisco prudenza. Non sapete fino in fondo cosa sia questa malattia. Non è finita ancora. Non forzate la mano. Monsignor Derio Olivero, 59 anni, vescovo di Pinerolo, a fine marzo è risultato positivo al test per coronavirus. È stato gravissimo, intubato e tracheostomizzato, ha rischiato di morire. Ora è guarito, seppur è convalescente in ospedale. A Repubblica racconta la sua esperienza, spesso interrompendosi per piangere. Come commenta lo scontro fra vescovi e governo? Credo non sia il momento di essere imprudenti, ma collaborativi. Il comunicato mi sembra abbia un po' troppo il tono dell'autonomia. Non è questo il tempo di mostrare i denti, bensì di collaborare. Si può vivere senza l'Eucaristia? Abbiamo rinunciato al triduo pasquale, perché non provare a pazientare? Credo che questa epidemia possa essere un kairos, un'occasione da cogliere anche nel modo di fare pastorale. Molti vescovi si sono industriati per far pregare le persone nelle case, molti sono tornati a pregare come non facevano prima, perché non insistere sulla necessità di reimparare la fede nelle case? Dall'altra parte il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, membro del direttivo della CEI, sempre sul quotidiano La Repubblica, dice: mi sembra difficile sostenere che su un pullman lungo 18 metri ci possano stare in sicurezza 40 persone, mentre in una chiesa di 900 metri quadrati siano ammessi soltanto per i funerali 15 persone. Come vescovi non pretendiamo privilegi, ma almeno di essere trattati parimenti rispetto ad altre realtà alle quali l'apertura è stata concessa. Parla di delusione, dice che esiste un diritto alla libertà di culto che non può essere disatteso e questo diritto va rispettato fino in fondo. Le modalità per fare questo, dice, ancora ci sono. Ancora, anche qua, la stessa domanda, no? Gliela rivolge sempre Paolo Rodari, che firma un po' tutta la pagina. La Chiesa può esistere senza Eucaristia? L'Eucaristia non è una semplice devozione, la vita stessa della Chiesa. Non è qualcosa che può riguardare la fede privata del cristiano, ma è qualcosa che costituisce la Chiesa stessa. Quindi, come capite, anche sul tema dell'Eucaristia pare esserci, non una divisione chiaramente tra i vescovi, però insomma un pensiero su quanto effettivamente vi si possa, con parole diverse, no? Con quanto effettivamente vi si possa rinunciare in questa fase. Fatto sta che il dibattito è aperto, fatto sta che è presumibile che il Presidente del Consiglio Conte appunto su questo faccia un qualche passo indietro e provi ad arrivare ad un protocollo con un protocollo che da firmare con la CEI, che appunto arrivi a tutto questo. Vi risparmio tutte le pagine di giornale sulla questione degli affetti stabili, perché ragazzi ne abbiamo parlato all'infinito ne abbiamo parlato. Scusate, solo a proposito delle mese vi voglio segnalare anche l'intervista realizzata a pagina 7 dal Messaggero, già ve la citavo nella prima parte della trasmissione, con Massimo Galli, il primario dell'ospedale Sacco di Milano, uno dei virologi più noti che abbiamo visto in questi giorni negli schermi TV, abbiamo sentito in radio, il quale dice sulla questione delle messe, ovviamente con tutte le cautele del caso, no? Nessuno si sbilancia su questa vicenda, nessuno si sbilancia fino in fondo, nessuno che dica no, però insomma con tutta la delicatezza del caso, è una questione di grande delicatezza, nessuno di noi ha voglia di fare dichiarazioni, secondo la logica però siamo davanti a una realtà che implica cautela a tutti i livelli. Parliamo dei rischi allora, professor Galli, anche qua, premessa, prima voglio una premessa, con la massima umiltà e senza voler urtare la sensibilità delle persone, prego. Come gli ammalati possono partecipare alle messe in TV se si trovano in ospedale, altrettanto dovrebbe accadere adesso in questa prima fase 2. Se l'adempimento del sacramento è considerato assolto per chi sta in un letto di ospedale in quanto impedito ad andare in chiesa, allo stesso modo dovrebbe capitare adesso, visto che c'è forte il rischio che si ammali. Stiamo parlando in vista del 4 maggio, la messa, insomma il tema è questo, la messa non è una priorità tale da rischiare di creare squilibri. Il titolo è In chiesa, stessi rischi dello stadio, non si può consentire ora la libertà di culto. Molte ovviamente le pagine economiche in queste ore, guardate, tantissime le proteste che arrivano soprattutto dal mondo delle piccole e medie imprese, da chi è escluso da questa fase di riapertura, e ci riferiamo in particolare al commercio che riparterà più tardi e solamente in parte, servizi alla persona che partiranno addirittura il 1° di giugno, estetisti, parrucchieri, bar. Il rinvio delle aperture, ci racconta Enrico Netti a pagina 15 del Sole 24 Ore, farà danni per 80 miliardi. C'è Sangalli, il presidente di Confcommercio, che chiede un incontro al Premier Conte puntando alla riapertura in sicurezza. Confesercenti dice, chiede di riprendere l'attività con protocolli aggiuntivi e specifici, altrimenti non si regge. Evidentemente il Sole 24 Ore intervista anche il ministro Patuanelli, il ministro delle attività produttive, lo fa con Carmine Fotina, ministro Patuanelli, che promette con il decreto di aprile 15 miliardi alle piccole e medie imprese, una fase 2 anche economica in costruzione. Ieri aveva parlato in TV di 10 miliardi a fondo perduto, e vedremo. C'è un'altra questione economica che riguarda insomma non solamente le aziende ma tutti noi, la famosa questione delle mascherine. Le mascherine a prezzo politico, le mascherine a 50 centesimi. Cosa succede? E qua torniamo sul Sole 24 Ore, restiamo sul Sole 24 Ore e ci spostiamo invece a pagina 12. Cosa succede? Che l'ordinanza, appunto, il commissario Arcuri prevede che le mascherine possano essere vendute solamente a 50 centesimi di euro. Ma cosa succede? Questo fa sì che vengano di fatto espulse dal mercato le aziende italiane che stavano provando la riconversione, perché a 50 centesimi di euro le mascherine non si possono produrre se non in Cina. Siamo molto chiari. E quindi Silvia Pieraccini da Firenze ce lo racconta: ci hanno chiesto di riconvertirci alla produzione di mascherine quando c'era necessità, il paese aveva grande bisogno, lo abbiamo fatto senza pensarci troppo e adesso il governo impone prezzi di vendita che ci mettono fuori mercato. A parlare è Azzurra Morelli, titolare di Pelle Moda, azienda di abbigliamento di Empoli, produce abiti per grandi marchi, esprime il disappunto di decine e decine di produttori che da nord a sud dell'Italia si sono buttati con grande entusiasmo e spesso molti ostacoli nella produzione di mascherine e che ora, con l'annuncio del governo di fissare un prezzo al pubblico calmierato a 50 centesimi l'una, si trovano con una linea di produzione avviata e il fatto che non ci rientrano coi costi. Il GR, poi ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospite Silvio Berlusconi e poi la ministra della famiglia Bonetti. A tra poco.